Bibbia Martini, primo libro dei Re 15 all'Empio re di Giuda Abia, succede il Pio re Asti suo figliuolo, il quale con gli aiuti di Ben-Hadad re della Siria fa guerra a Basan re di Israele. Al re Asa succede il figliuolo Josafat. Baasa uccide Nadab figliuolo di Geroboam con tutta la sua schiatta, e regna in sua vece sopra Israele per 24 anni un empio, che succede a un empio. Il 18° anno del regno di Geroboam figliuolo di Nabat, regnò Abia sopra Giuda. Ei regnò 3 anni in Gerusalemme, sua madre chiamavasi Maacha figliuola di Abessalom. Ed egli imitò in tutto i peccati fatti dal padre suo prima di lui, che il suo cuore non fu sincero verso il Signore Dio suo, come il cuore di Davide suo padre. Ma per amor di Davide il Signore Dio suo gli diede una lampana in Gerusalemme, suscitando dopo di lui il suo figliuolo, e tenendo in piedi Gerusalemme, peroché Davide avea operato rettamente negli occhi del Signore, e non avea traviato in nulla da suoi comandamenti per tutto il tempo di sua vita, eccettuato il fatto d'Uria diet. Fu però guerra tra Roboamo e Geroboam finché quegli visse. Il rimanente poi delle azioni di Abia e tutto quello che i fece non è egli scritto nel giornale delle cose dei re di Giuda? E vi fu battaglia tra Abia e Geroboam. E Abia si addormentò coi padri suoi, e lo seppellirono nella città di Davide, e Asa suo figliuolo gli succedette nel regno. L'anno 20° adunque del regno di Geroboam re di Israele, regnò Asa re di Giuda, e regnò 41 anni in Gerusalemme, la sua madre ebbe nome Maacha, ed era figliuola di Abessalom. E Asa fece quel che era giusto nel cospetto del Signore, come Davide suo padre, e tolse via dal paese gli effeminati, e lo purgò da tutte le sozzure degli idoli fabbricati da padri suoi. E oltre a questo si levò d'intorno sua madre Maacha, affinché non fosse sacerdotessa nelle cerimonie di Priapo, del bosco, che ella gli avea consacrato, ed ei rovinò la sua spelonca, e spezzò l'infamissimo simulacro, e lo bruciò presso al torrente Cedron, ma non tolse i luoghi eccelsi. Peraltro il cuore di Asa fu perfetto in verso il Signore per tutto il tempo di sua vita. Ed ei portò nella casa del Signore le cose consacrate, e offerte in voto dal padre suo, l'argento, l'oro, e i vasi. E fu guerra tra Asa e Baasa re di Israele per tutto il tempo della loro vita. E Baasa re di Israele si avanzò ancora nel paese di Giuda, ed edificò Rama, affinché nessuno potesse andare e venire dalla parte di Asa re di Giuda. Quindi è che Asa preso tutto l'argento e l'oro che era rimaso nei tesori della casa del Signore e nei tesori della casa reale, lo messe in mano dei suoi servi e li mandò a trovar Ben-Hadad figliuolo di Tabremon, figliuolo di Ezion, re della Siria, che abitava in Damasco, per dire a lui: siamo confederati io e tu e il padre mio e il padre tuo. Per questo io ti mando in dono dell'argento e dell'oro, e ti prego di venire e rompere la confederazione che hai con Baasa re di Israele, onde egli si ritiri da me. Ben-Hadad si prestò ai desideri del re Asa e spedì i capitani del suo esercito contro le città di Israele, ed espugnarono Aion e Dan e Abelcasa di Maacha e tutto il territorio di Cenneroth. Viene a dire: tutta la terra di Neotali, udito ciò Baasa, tralasciò di edificare Rama, e se ne tornò a Tersa. E il re Asa spedì suoi messi per tutto il paese di Giuda a dire: nessuno goderà esenzione. E presero le pietre e i legnami adoperati da Baasa agli edifici di Rama, e con essi il re Asa fabbricò Gaba di Beniamin e Masfa. Il resto poi delle azioni di Asa e tutte le imprese di lui e tutto quello che gli operò, e le città fondate da lui. Queste cose non sono elenco scritte nel diario dei re di Giuda. Ma egli in sua vecchiaia patì di male di gambe. E si addormentò co padri suoi, e fu sepolto con essi nella città di David di suo padre. E Josafat suo figliuolo gli succedette nel regno. E Nadab figliuolo di Geroboam regnò sopra Israele il 2° anno di Asa re di Giuda. E regnò sopra Israele per 2 anni. e fece il male nel cospetto del Signore, e seguì le tracce di suo padre, e i peccali, a quali quegli aveva indotto Israele. Ma Baasa figliuolo di Aia della tribù di Sacar li tese insidie, e lo uccise presso Gebeton città dei Filistei o i perocchi Nadab, e tutto Israele erano all'assedio di Gebeton. Baasa dunque lo uccise l'anno terzo di Asa re di Giuda, e succedette a lui nel regno e divenuto re, sterminò tutta la casa di Geroboam, non lasciò anima di quella stirpe, ma la distrusse interamente secondo la parola detta dal Signore per mezzo di Aia Silonita suo servo, in pena dei peccati, che avea commessi Geroboam, e avea fatto commettere ad Israele, e per la iniquità, con la quale avea irritato il Signore Dio di Israele. Il rimanente poi delle azioni di Nadab, e tutto quello che gli operò, non sta egli scritto nel diario dei re di Israele? E fu guerra tra Asa e Baasa re di Israele, per tutta la loro vita. L'anno terzo di Asa re di Giuda, Baasa figliuolo di Aia ebbe il regno di tutto Israele, e regnò in Tersa 24 anni. E fece il male dinanzi al Signore, e seguì le vie di Geroboam, e i peccati, che quegli fece commettere ad Israele. Note, 15,2, sua madre chiamavasi Maacha, ed era figliuola di Abessalom. Abessalom è lo stesso che Absalom, e figliuolo di Absalom figliuolo di Davide era la madre di Abia secondo la più comune opinione. Ella è detta Tamar, 2. Regione 14. 27. Ma non è cosa nuova nelle scritture, che una stessa persona abbia due nomi, e forse Tamar portava anche il nome di Maacba in memoria dell'avo la madre di Absalom. Giuseppe ebreo però suppone che Maacba fosse non figliuola, ma nipote di Absalom, essendo figliuola di Tamar maritata ad Uriel, come afferma lo stesso Giuseppe, Antic. 8, 3. Vedi 2. Paral. 13, 2. 15,6. Fu però guerra tra Roboamo e Geroboam. Alcuni pretendono che invece di Geroboam si debba sostituire Asa, ma non vedo questa necessità. Il sacro storico avendo detto che Dio aveva voluto per amor di Davide sostenere in piedi la famiglia regnante in Giuda, soggiungeva che questo regno non ebbe mai pace con Geroboam, non volendo Dio lasciare impunite le iniquità di Roboamo. 15,7. E ci fu battaglia tra Abia, e ci vedi 2. Paral. 13, 22.23. 15,13. Si levò d'intorno e ci l'ebreo, rimosse dalla padronanza, le tolse l'autorità, che avea come madre del regnante. Affinché non fosse sacerdotessa nelle cerimonie di Priapo. Priapo dio dell'impurità. Fa onore il sentire una regina del sangue di Davide non solo render culto a quella infame divinità, ma farsi capo delle oltre donne consacrate allo stesso Priapo. 15,14. Ma non tolse i luoghi eccelsi. Egli tolse gli altari e le statue dei falsi dei, dei quali era pieno a illora il paese, 2 paral. 14, 2, ma o non ardi di tentare, o non poté venire a capo di impedire, che i giudei non andassero a far orazione, e ad offerir sacrifici in quei luoghi eccelsi consacrati di lunga mano al vero Dio e tollerati fino a tanto che non fu fatto il Tempio di Gerusalemme. I migliori principi sono talora costretti a dissimular certi mali fortemente radicati nel popolo, per timore di non compromettere ed esporre al disprezzo l'autorità, ed incorrere in mali maggiori. Peraltro il cuore di Ala fu perfetto in verso il Signore. Fu perfetto nella fede e nel culto del vero Dio. Questo elogio però non vuol dire che egli non peccasse in altre cose, e purtroppo egli peccò, ma ci dà fondamento per credere, che fece penitenza delle sue colpe. 2. Paral. 16.7. 10, 12. 15,15. Portò nella casa del Signore le cose consacrate. Dal padre suo. Abin padre di Asa aveva fatto voto di offrire queste cose al Signore al tempo della battaglia che fu tra lui e Geroboam, nella quale Dio gli diede miracolosamente la vittoria. 2. Paral. 15:18. 15:17. Affinché nessuno potesse andare e venire dalla parte del re Asa. Rama fu fabbricata in un luogo assai rilevato, e dominava le gole dei monti, per i quali era il passo dal paese di Israele in quello di Giuda. Baasa volle rompere ogni commercio tra i suoi sudditi e i giudei, perché essendo cresciuto di reputazione e di forze il re Asa, molti israeliti passavano nel paese di Giuda. 15:18. Benadad. Figliuolo di Ezion. Benadad era nipote di Ezion, che è quel Razzon, di cui parlasi di sopra capitolo. 15:20. Abel casa di Maacha. Ovvero Abel Bet Maacha. Eila è chiamata Abel Marim 2. Paral. 16:4. E tutto il territorio di Cennerot. Tutto il paese intorno al mare di Cennerot o sin di Tiberiade. 15:22. Nessuno goderà esenzione. Si trattava di assicurare le frontiere del regno col fortificare Gaba e Masfa. Quindi Asa chiama tutti al lavoro, e dichiara, che nessuno in tal occasione potrà godere immunità. 15:27. Presso Gebeton. Città della tribù di Dan tenuta allora da Filistei.